everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di solo vinile libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione. Tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Invasion. Non delegare. Spiato, secondo Wikileaks, dall'agenzia americana NSA. Ecco, 21:11. Intanto salutiamo Luca che ci ha chiamato. Già pronto con una richiesta. Siete sempre all'ascolto degli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Siamo tornati con Do It Yourself Invasion dopo. Dopo una pausetta. Do It Yourself Invasion. Trasmissione concentrata sulle autoproduzioni, che dà ampio spazio alle iniziative musicali. Insomma, c'è un sacco di roba in giro questi giorni. Ne andremo a parlare più tardi. Non prima di ricordarvi i contatti della radio. Quindi partendo dal nostro sito, raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete ascoltare la radio oltre le barriere dell'FM, quindi su tutto il globo terracqueo, andando a cliccare su Ascolta. E nonché potete trovare tutte le notizie, le corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni. Radio Onda Rossa, radio libera del 1977, senza padroni, senza padrini, che vive senza pubblicità e che può andare in onda attraverso l'aiuto di tutte e tutti. Quindi sempre attraverso il sito, andando a cliccare su Sostieni, sarete indirizzati alla pagina di PayPal, dove poter sottoscrivere in forma digitale. Oppure attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185 Roma San Lollo. Se volete sottoscrivere liberamente, potete farlo anche venendoci a trovare qui negli studi di Radio Onda Rossa, sempre in via De Volci 56. E se non l'avete ancora fatto, è uscita Scarceranda 2016, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno. E quindi agenda più quaderno, 12 euro. Un'autoproduzione che ci permette per ogni acquisto di inviarne una copia a chi si trova recluso. Quindi per ogni acquisto potete indicarci dove poterla spedire. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info. Quindi potete sottoporci le vostre autoproduzioni scrivendoci o per segnalazioni di iniziative. Insomma, una trasmissione che vive di questo. Non per ultimo il numero di telefono 0649 1750. E noi iniziamo parlando di un'iniziativa passata, quella di sabato scorso, seratina hardcore al Bencivenga occupato. Bencivenga Squat. Una serata benefit a sostegno della Biblioteca L'Idea. Organizzata dalla crew 1% di Paliano. E devo dire che quando si muovono loro, insomma, l'atmosfera giusta, come piace a noi, è una garanzia. E quindi abbiamo visto sul palco Evento d'Ottobre, Zona d'Ombra, Lud Rising, Assedio e i Social Trauma, che hanno fatto uscire da poco il loro ultimo lavoro. Social Trauma senza titolo 2015. Anche loro una sicurezza dal vivo, solida bomba. Noi ce li ascoltiamo con Illusione Repressione, nuova nuova. Nel E come detto prima, sul palco del Bencivenga abbiamo visto anche gli Assedio, sempre più bravi. Quindi così a rinsaldare l'asse di supporto reciproco tra chi si muove nella provincia. Da Viterbo gli Assedio, qui con un pezzo nuovo dalla compilation Kids Against Renzi. Una compilation dedicata a chi ci distrugge il futuro. Loro sono gli Assedio, questo è Renzi lo stregone. È il classico piacione, no? In alcuni quartieri di Roma si chiama paraculo, senza offesa. Sempre su Kids Against Renzi, compilation appena uscita. Prigionieri di un impero, il rompo suono della sveglia, con l'altro piede a una terra, un passo gravo e siamo della storia, cielo a bucare un'altra alba, un passo gravo. Ci sono anche i Black Hager Corra, questo è un pezzo inedito, quindi lo trovate solo sulla compilation. Prigionieri. Il pezzo a Gabs ce lo riascoltiamo da capo. Col nostro metallo nero, generazione che più non c'è della sveglia, a bucare un'altra alba, un passo gravo ed essenziale, fuori il cielo che attanaglia, è l'Italia degli schiavi, prigionieri di un impero, non piegarsi è l'importante, col nostro metallo nero, il rosso suono della sveglia. Bucare un'altra alba, un passo gravo ed essenziale, fuori il gelo che attanaglia, è l'Italia degli schiavi, prigionieri di un impero, non piegarsi è l'importante, col nostro metallo nero, generazione che più non c'è, tra gli artigli del Joe Sect. all'ultimo lembo. Non fuggirai, tu rimarrai, anzi ti accanirai. Ti accogliamo verso un eremo che si chiamerà Gabs. Sotto il peso dei ricatti, nessun dubbio, qui ci vogliono morti. C'è ben poco ormai da fare, è la ricetta liberale. Rifugiamoci ai biliardi, qui celiamo i nostri sguardi. E potete star tranquilli, ti abbatteremo come cinque birilli. Generazione che più non c'è, tra gli artigli del jet set. In equilibrio su di uno strapiombo, aggrappati a quell'ultimo lembo. Non fuggirai, tu rimarrai, anzi ti accanirai. Vi accogliamo verso un eremo che si chiamerà Gabs. Sempre sul palco del Ben Ci Venga. Siamo stati ben felici di scoprire gli Zona d'Ombra. Qui ce li ascoltiamo da Guerra all'Apatia. Pezzo che dedico a Val Valconte, di ogni voglia, di ogni gusto. Di un'altra trasmissione musicale, Sporco Dentro, The Organization of Noise. Sono io solo. Che va sul web. Dove il tempo scorre. Quindi la potete ascoltare su radiocroda.com. Quest'anno ci ripromettiamo di andare a scoprire le altre trasmissioni in giro per l'Italia. Che danno spazio al do it yourself, alle autoproduzioni. E una di queste appunto è Sporco Dentro. Magari prossimamente ci facciamo una chiacchierata in diretta, Valva. Tanto questo è Inverno Infinito, ce la riascoltiamo da capo, loro sono gli Zona d'Ombra. Stay. E diamo spazio adesso ad una richiesta, arriva dallo 06 491 750. Questa ce la propone Luca. E loro sono il Repute. Clean Cut, American Kid. Questo sabato ci sarà il consueto appuntamento invernale di Questa è Roma. Abbassiamo un po' i livelli, Quindi l'edizione di Questa è Roma nel sarà all'Acrobax. Questa è Roma, uno tra i più grandi festival della scena indipendente. I gruppi sono sempre un botto. L'elenco è veramente lungo, di Young Click, i Tacita, No More Lies, Bloody Riot, i Foul, Grand Theft Age, Live Life, i Dr. Gore che stiamo ascoltando in sottofondo, Disforia, Vinnie Jones Band, i Tibia, i Placcaggio che abbiamo ascoltato prima. Respect for Zero, Because the Bean, Vibrata Core, quegli zozzoni dei The Dirty Jobs. Gli Oppressed. E poi veri special guest, i Rancore. Noi andiamo a passare qualche selezione dei gruppi che saranno, di qualche gruppo che sarà presente a questa è Roma. Quindi questo sabato 16 gennaio all'Acrobax. Loro sono i Dr. Gore, questa è Viscera. Thank you. E questa è Roma, l'edizione di quest'anno. A 10 anni dalla scomparsa di Antonio Salerno Piccinino, Antò. Dieci anni di rabbia e amore. E questo è il pezzo a lui dedicato, dai Rancore. Rancore che andranno a chiudere il festival questo sabato. Rancore. Nel frattempo ci arriva un'altra richiesta da Luca. Questo è un pezzo degli Aggression, I'm Alive. Insomma, Luca è un esperto del punk hardcore californiano. Questo pezzo lo dedica a tutti i surfisti e le surfiste. In quanto sono tornate le onde, loro sono gli Aggression, I'm Alive. E 53 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Quindi l'appuntamento con Do It Yourself Invasion è prossima alla chiusura. Quindi un saluto a tutte e a tutti per l'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Andiamo a chiudere con un pezzo che è un saluto ad un amico, ad un fratello. Che ci ha lasciato troppo presto. Noi continueremo a ricordarlo con gli abbracci e le risate. E lui, Valerio Molestius, chitarrista dei Doomraiser. Con i quali ha registrato i primi storici due dischi. Doomraiser che festeggeranno questo venerdì 10 anni di attività, quindi... andate a ricercare, insomma, sulla rete dove suoneranno questo venerdì. Quindi questo è il nostro saluto a Molestius. Dal primo disco Lords of Mercy. E questo è Doom Alcohol Holocaust. A giovedì prossimo. Rimanete sintonizzati perché tra poco Apostasia. Ciao Molestius. Night celebrates, I'll fade on a morphine.